Lancio la sfida a Ronaldo, il fenomeno brasiliano. Presentati al tanga, uno contro uno. Pam, pam, pam, pam, pam. Basta mangiare. Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta e Giovanni Capuano. No, ma voi mi dovete spiegare perché ad ogni puntata di Tutti Convocati alle Olimpiadi, peraltro ogni giorno da lunedì a venerdì, dalle 18 alle 20, per chi non lo sapesse ancora, o per i duri di comprendonio, o quelli che hanno la memoria corta, siamo qui a raccontarvi le Olimpiadi fino alla fine con Giovanni Capuano. Ma mi dovete spiegare perché ogni puntata è introdotta da una sciocchezza detta da Bobo Vieri, che con le Olimpiadi non Ma c'entra nulla. forse perché sognano loro due, quelli loro tre, quelli che sono dietro al vetro, sognano di far entrare il foot volley alle Olimpiadi, sì, se lo nel possono programma anche olimpico, scordare, ma tra il poco ve lo foot volley. chiediamo e vogliamo sentire su questo la vostra voce. Quelli dietro al vetro sono, per la cronaca, Claudia, e quelli che ci devono spiegazioni, Claudia Schiattone, nostro autore, Lorenzo Nespoli, Leonardo Sirigardi, Pietro Accorto. Non c'entra nulla perché gli dice, è in regia, gli dicono manda questo e lui mi manda Bobo Vieri. Io voglio dare una medaglia a Franco che ci ha scritto 349-238-6666 alle 18:02, 8 secondi prima ancora che fossimo in onda. Io invece, prevedo massimo 20 medaglie per l'Italia, perché è debole. Ha letto l'intervista di Malagò su Repubblica. Malagò ha abbassato il tiro da 25 adesso a 20 e poi vediamo. Io una medaglia la do certamente a Leo Turrini, che è arrivato in Brasile. Ed ecco, hai visto che ci sentiamo? Ma hai visto che il telefono funziona, Leo? Ma per ora sono abbastanza incredulo, anche perché devo dirvi ho fatto un viaggio che mi ha sollevato una domanda amletica che non riguarda Bobo Vieri. Cioè? Ma potete spiegarmi perché i presidenti delle federazioni, e non farò nomi e nemmeno cognomi, viaggiano in business e gli atleti che sono quelli che poi possono portare le famose 20 medaglie di Malagò sono stipati in classe economica? Questa è una domanda, Ecco, la classica domanda retorica, è un grande interrogativo che io vorrei voi sviluppaste. No, Perché perché secondo se è me retorica dovrebbe non ha risposta. O preferisci invece, domanda pleonastica? dovrebbe accadere l'inverso. Chiaro. I ragazzi, le ragazze che vengono qui a giocarsi una carriera sperando di regalare, penso si possa dire, a tutta l'Italia un'emozione in business. E i burocrati, i paperoni, i tromboni delle federazioni del CONI in economica. Sì, però vedi, ecco, Leo, questo sarebbe un segnale di cambiamento. Scusate, un pugile ti risponderebbe che va bene lo stesso, che loro sono abituati, l'importante certo, è andare alle sì, Olimpiadi, si fanno la barba anche al buio, sì, oppure buttano il materassino sì, per terra, come ci raccontava ieri Cammarelle. E quindi è inutile fare polemiche. Ma no, però poi sul ring a prendere i cazzottoni non ci vanno i parrucconi, scusate la rima. Polemica. Ecco, io volevo appunto sottolineare questa cosa, perché ci ho fatto caso. Ecco, allora, mi è venuto da pensare, ho detto magari il mio maestro Genza condivide questa istanza e potrebbe renderla pubblica. Condivido, rendo pubblica e mi impegno in una dura battaglia contro una domanda, ripeto, retorica o pleonastica, di quelle che non troveranno mai una risposta. È questa, io la voglio ufficializzare. Malagò, i presidenti federali e tutto il resto in economy. In economy. E gli atleti in business. In business. E se non basta un aereo, se ne prendono due, una volta ogni quattro anni. Non lo so, insomma, io credo che si possa procedere in questa direzione. Diamo un segnale di cambiamento, amici di Radio 24. Senti, com'è l'alloggio olimpico? No, devo dire il mio fortunatamente tutto è a posto. Ottimo, è un po' distante da quello che è, diciamo così, il quartiere olimpico, il villaggio olimpico, dove c'è la sala stampa. Adesso bisognerà adattarsi un pochino perché comunque Rio è una metropoli immensa, però come vi avevo anticipato ho la sensazione che poi tante descrizioni apocalittiche certo, che ci siamo sorbiti alla vigilia fossero un tantinello esagerate. Comunque vediamo, domani si parte. Oggi ho parlato, sapete che è italiano il regista della cerimonia inaugurale? Come è stato nostro ospite l'altro giorno. Ah, bravo, Marco Balic in una allora, lunga intervista che ci ha concesso. Ho tentato il nome dell'ultimo tedoforo. Sì, che sarà? Ma non me l'ha voluto dire, non me l'ha l'ultimo detto, perché qui sarà? I brasiliani tutti parlano di Pelé, sì, no? perché comunque Pelé è davvero per questo popolo, per questa terra, ha rappresentato più di chiunque altro un valore, un punto di riferimento assoluto. Però leggevo che pare che Pelé abbia degli sponsor, perché poi lo ripiede anche questo, che sono in contrapposizione con gli sponsor dei giochi. Ah. E quindi la stampa brasiliana ha raccontato che si deve fare autorizzare da chi gli passa la grana, no? Per poter andare ad accendere il tripode. Quindi può anche essere che alla fine può risolverla, Leo, può risolverla come Michael Jordan a Barcellona, che mise la tuta dello sponsor avversario ma si drappeggiò strategicamente la bandiera a stelle e strisce sulla spalla in modo da coprirne il logo, il vecchio Michael. È possibile, non lo so, comunque se fosse Pelé io credo che non dispiacerebbe nessuno. No, assolutamente, simbolo totale. Allora, io voglio lanciare, prima del traffico, due cose. La prima, WhatsApp, perché? Diteci su WhatsApp quali sport vorreste vedere alle Olimpiadi, e vale tutto, però dovete dirci anche perché. Perché oggi sono stati ammessi per le Olimpiadi di Tokyo, cui Leo Turini ha già l'accredito, è già inviato. Non credo, lì sono già morto. Aspetti. Comunque lì devi andare, anche perché hanno messo sport tradizionali ormai come baseball e softball, come il karate, che è ingiustamente escluso. Ma poi ci sono surf, skateboard e arrampicata sportiva. Arrampicata sportiva posso arrivarci. Lo skateboard mi vedo già i ragazzini con i pantaloncioni a fiori o a scacchi che sul ritmo di breakdance fanno i loro numeri. C'è una cosa da dire, non voglio difendere il CIO, che è un accolito di tromboni, poi abbiamo seguito tutte le vicende legate al doping eccetera. E tra poco le riseguiremo da vicino. Però si diceva la stessa cosa anche quando alle Olimpiadi invernali venne ammesso lo snowboard. Sì, è vero. Cioè c'era chi diceva, ma queste sono delle carnevalate sulla neve, sul ghiaccio, non è sport. Poi invece abbiamo scoperto che i giovanissimi che impazzivano per queste discipline, che chiamano le discipline X, no? Sì. Perché sta per estremo, in realtà tutti questi ragazzini, fan, eccetera, e soprattutto i praticanti, poi non avevano torto. Io non sono così ostile all'innovazione, perché poi il tempo cambia, le cose vanno avanti, ma non c'è bisogno di andare alle Olimpiadi per farlo. Sì, ma poi lo snowboard può essere una variante dello sci, può essere una variante skateboard, dello sci, lo una variante del monopattino. Siamo davvero al divertimento e basta. Magari è spettacolare, però insomma, io ho un concetto diverso di sport. Ah, va bene, anch'io, ma per quello che ne sapete voi che siete giovani, magari Bobone Vieri sullo snowboard ha delle possibilità di essere a Tokyo nel 2020, perché no? 349-238-6666, per i vostri WhatsApp vocali meglio. Quale sport sognate per le Olimpiadi? E poi, tra poco, Leo, già ti informo, subito dopo il traffico, caro Leo Turrini, nostro nume tutelare olimpico, ormai da Rio de Janeiro, allora ci facciamo seri, perché parleremo con il professor Donati, lo avremo nostro ospite, parleremo di Alex Walzer. Tra l'altro la notizia di oggi è che è risultato negativo il controllo del 22 giugno, l'ultimo effettuato a sorpresa, ed è il 20esimo. E la domanda che faremo a Sandro Donati, che faccio a tutti voi, è: Walzer colpevole o ingannato, raggirato, vittima. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Buongiorno, formaggio. Disturbo, immagino, a quest'ora. Per cortesia, stia calmo. L'unica cosa, la prego, glielo dica ancora una volta, fino a prima della gara, possibilmente lasci vincere Talent. Ma capisce? Questo è l'audio, ne avevamo letto, ma questo è l'audio di una telefonata ricevuta da Sandro Donati, allenatore di Alex Walzer, e che oggi è stato... Insomma, è stata riassunta, è comparsa in sonoro appunto all'interno di un bellissimo documentario sul sito internet di Repubblica. Un documentario che racconta tutta la vicenda e che francamente a me ha messo i brividi. Credo anche a Giovanni Capuano, a Leo Turrini che è collegato con noi dal Brasile, ma soprattutto a Sandro Donati che questa vicenda l'ha vissuta. Buonasera professore. Buonasera a lei e a tutti. Allora, partiamo dalla cronaca. Ultimo controllo, 22 giugno, Alex Schwarzer negativo, 20 controlli eseguiti, l'ultimo dei quali pure a sorpresa. C'è il giudizio, si va in Brasile, quali sono le speranze? Ma guardi, tutto si è ridotto all'ultimo momento per il boicottaggio sui tempi che ci ha fatto la IAF, cioè la Federazione Internazionale, per cui alla fine non abbiamo potuto far altro che accettare questa ultima possibilità, sempre impostaci dalla IAF, di andare a finire a Rio a pochi giorni dalle gare, per giunta con una udienza, come la definiscono, breve, quindi non abbiamo neanche idea questa udienza breve quanta possibilità ci darà realmente di esprimerci e difenderci. Leo Turrini, lo chiedo anche a Giovanni Capuano e l'ho già chiesto a tutti gli ascoltatori, 800240024, Schwarzer colpevole o vittima, o ingannato, o raggirato? Guarda, io ho scritto spesso di questa vicenda, intanto saluto il professor Donati. Buongiorno, buongiorno. Che considero una delle persone migliori che mi sia capitato di frequentare, sia pure sporadicamente, raccontando lo sport. Cioè, io ho scritto spesso su Carlino, La Nazione, Il Giorno, di questa vicenda, sono esterrefatto per una ragione molto semplice, che qui i casi sono due e mi fa piacere che ci sia, professore. O Alex effettivamente, e lo dico senza virgolette, è un criminale di guerra, cioè si dopava di nascosto a Donati e a tutte le persone che hanno creduto nella sua possibilità di rinascere dimostrandosi atleta pulito, e questa è un'ipotesi, perché chi sostiene l'accusa ci vuol far credere questo, e io devo dire che sarei veramente sbigottito. Per esperienza non metto la mano sul fuoco per nessuno, ma questo sarebbe troppo grosso. Io sono molto amico del procuratore di Bolzano, Rispoli, che è quello che ha condotto a suo tempo l'inchiesta penale sulle note vicende del doping, sì, Londra, sì, 2012, sì, eccetera, e so che fu Rispoli, che è un bravissimo magistrato, che suggerì ad Alex: se vuoi ricominciare, fallo col professor Donato, quindi... perché è l'unico modo che hai per renderti credibile in questo tentativo. Pur sapendo di andare incontro ad un rischio di cui dirò tra poco, allora la prima ipotesi Schwarzer è un criminale, vero? Esatto. Oppure la seconda? Ecco, la seconda è che in questa vicenda, per come l'abbiamo raccontata, per come ci è stata narrata, ci sono troppi punti oscuri che quantomeno giustificano il dubbio, cioè, la tempistica è la procedura. Beh, insomma, ha detto bene prima il professore, questi sono riusciti a far sì che si arrivasse a Olimpiadi in corso, perché domani c'è l'inaugurazione, senza concedere quelli che si chiamano banalmente i termini a difesa, no? Ma chiaro. Sarà un processo sportivo sommario. Sarà un processo sportivo sommario. Allora, e lo sappiamo. Questo ti fa sospettare. Poi ho sentito prima il brano di telefonata, ne avevo già letto. Poi c'è anche tutta la storia che il controllo è dell'1 di gennaio. No, poi c'è la storia di queste provette che sono rimaste, insomma, che hanno subito alcuni passaggi quantomeno sospetti. Giovanni? A me piacerebbe capire dal professor Donati se si è data una spiegazione della bolla anche di solitudine in cui nell'ultimo mese e mezzo lui e Schwarzer sono caduti. Mi pare che di solidarietà ce ne sia stata poca, poi magari parleremo anche della solitudine con cui andate a Rio, non so con quali speranze, se si è data una spiegazione. Ma guardi, è che a un certo punto mi è stato fatto pagare il conto di una vita spesa non per attaccare il doping del singolo atleta, ma per individuare e mostrare a tutti la corruzione delle istituzioni, e volta per volta mi sono occupato di federazioni sportive nazionali italiane, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, federazioni internazionali, eccetera. Ed è chiaro che questo alla lunga ha determinato un accumulo di nemici non da poco. A questo si è aggiunta questa miscela esplosiva di questo atleta fortissimo, con un talento eccezionale, ecco. Dico subito a Leo Turrini che la prima ipotesi è da escludere totalmente, perché Alex, grazie ad un allenamento ben organizzato, aveva palesato tutto il suo talento e non faceva altro che sorridere, non faceva altro che dirmi: prof, sono felice, perché le capacità di prestazione lo avevano portato ma molto al di là di quando lui faceva il doping. Questa sarà una delle cose che io cercherò di mostrare, a Rio, se me ne daranno il tempo e la possibilità. C'era un allenamento chiave di 40 chilometri che, quando lui si dopava con l'EPO, aveva fatto in 3 ore 17 minuti e 48 secondi, e ha fatto quest'anno 3 ore 2 minuti e 57 secondi, 15 minuti di meno, un quarto d'ora di meno. Ma di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare di un altro atleta. Ma lei con, un quale, con quale convinzione vola a Rio? Con la convinzione di poter recuperare le Olimpiadi, semplicemente allora, di fare testimonianza? Allora, io volo per stare accanto ad Alex e alle sue ultime speranze, così di farcela e non buttare al vento questi sforzi, questi sacrifici enormi e anche spese che ha fatto. Questa è la prima cosa. Secondo, che possa servire la testimonianza, come dice lei. Terzo, io non mi sono mai fermato a metà strada, comunque affronto quello che la vita mi mette davanti. Fino a 2 mesi fa gestivo il più forte marciatore del mondo e adesso mi trovo, diciamo, ad essere con lui appestato, e credo che nella vita bisogna affrontare tutto e poi cercheremo di dimostrare tutto al contrario, insomma. Ma questo mi pare che si stia già realizzando. Pian piano, ogni giorno emergono, e ve ne dico un'altra e che vi fa capire tutto. Proprio oggi la IAF, che è la Federazione Internazionale, ha fatto filtrare su un quotidiano sul fatto che su Svizzera c'è un procedimento che è stato aperto ad aprile per dimostrare che un test che lui aveva fatto su una pista abbandonata a Tagliacozzo l'anno scorso, in settembre, non lo doveva fare. Allora, voi immaginatevi un po', sono andati a riprendere un test dell'anno scorso, a settembre, quindi un anno fa, quindi una volontà persecutoria chiarissima. Quindi si sono procurati più modi per cercare di incastrare ed eliminare questa atleta, e anche questa sarà una cosa. Però, professore, mi consenta. Sì. Per eliminare e incastrare questa atleta io ho un'opinione diversa. Sì. Ho condiviso 2 giorni fa, 3 giorni fa con l'amico e collega Cohen di Capodacqua di Repubblica, Eugenio Capodacqua. Sì, sì. La mia opinione è che abbiano voluto incastrare Sandro Donati e che Svizzera abbia corso un rischio, l'ho detto prima, nello scegliere lei come allenatore. Sì. Quindi la sensazione che ho io è che Svizzera sia laterale in questa vicenda, se mi consente. Ma questo mi dà dolore, però, perché... Le può anche dare dolore, però questa è l'opinione che abbiamo in molti, sa. Sai, io mi sono impegnato tanto per far ritornare questa atleta in maniera pulita, anche per, certo, dimostrare una volta per tutte che si può, con un allenamento organizzato, riuscire a fare grandi cose. E adesso sapere di essere io il piombo che lo porta a fondo. Non è questione di piombo, è questione che hanno, se mi permette, la sensazione che abbiano usato questa vicenda per fare del male a lei. Però anche per sbarazzarsi di questo atleta che avrebbe... Guardi, io dicevo sempre ad Alex, ultimamente, gli amici lo sanno, gli dicevo: guarda Alex, che ridisegneremo la specialità della marcia, perché io mi rendevo conto che il suo modo di marciare, la sua eleganza, la sua resistenza, la sua velocità, lo mettevano in condizione di fare quello che ha fatto a Roma, cioè di dare un chilometro di distacco al secondo, punto. Mm-hmm. Mm-hmm. Ecco, quindi purtroppo, ecco, questa che doveva essere una dimostrazione di come si può uscire dalla schiavitù del doping, invece è diventata un'arma contro, perché probabilmente si sono proprio spaventati di questo atleta che andava fortissimo. O di Sandro Donati. Ma lei andrà in fondo, comunque vada, in questa vicenda? Sì. Ci porterà a galla nomi e cognomi che ora rimangono un po' lì sul vago o nell'ombra? Beh, Vabbè, io non ho che ho dei poteri investigativi per giunta all'estero, in questo caso non ci dimentichiamo dove sono allocate queste federazioni, eh. Queste federazioni internazionali sono a Monte Carlo o a Liechtenstein e così via, cioè sono nei posti più protettivi, ecco, dal punto di vista finanziario, eccetera, eccetera. Quindi non è che sarà così semplice, ma anche per un magistrato non sarà così semplice avere le rogatorie, le cose, eccetera, eccetera. Io credo che diciamo già la ricostruzione che siamo in grado di fare adesso di fronte agli arbitri che saranno a Rio può far capire in maniera chiarissima che questa è una forzatura assurda, perché tutto il profilo dei tantissimi controlli che ha fatto Svizzera, compreso l'ultimo di cui oggi si è parlato, danno tutti il quadro di un atleta pulitissimo. Quindi alla fine emergerebbe che è stato fatto un doping nelle vacanze di Natale, a 5 mesi dalle gare, e poi questo doping scompare man mano che ci si avvicina alle gare. Cioè siamo a un assurdo, ma io dimostrerò che questo atleta andava già molto forte allora, andava già forte a settembre quando gli ho fatto fare quei test e ha fatto la migliore prestazione del mondo. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma dovesse vincere la sua battaglia e recuperare, diciamo, le Olimpiadi e poi dovesse arrivare una medaglia, visto quello che ha accompagnato quest'ultimo mese e mezzo, questa medaglia sarebbe una medaglia che voi sentite una medaglia italiana o una cosa solo vostra? No, italiana, perché comunque la solidarietà che abbiamo avuto è stata tantissima, e l'Italia non è rappresentata solo dal capo di una federazione o che so io, da tantissima gente, quindi assolutamente italiana. E anche Alex, nonostante il termine dispregiativo con cui quel medico della federazione lo definisce, Crucco, ma vede come sono i corsi e ricorsi, no? Ricordate quando Alex fu giustamente oggetto di critiche per quell'espressione infelice che aveva usato in una email col suo medico? Io non sono mica un napoletano, no? Quindi dando ai napoletani così un'etichetta, no? Di, come posso dire, di menzogneri, una cosa fuori luogo che lui aveva fatto. Guardate come sono i corsi e ricorsi. Adesso un medico, un laureato in medicina, uno che dovrebbe come prima cosa avere il rispetto delle persone e della loro integrità, cioè parte dicendo il Crucco, sì, cioè questa espressione dispregiativa, anche obsoleta volendo. Sì, io chiedo un istante di pazienza ai colleghi della borsa, perché volevo un'ultima domanda rapida di Leo Turrini a Sandro Donati, poi salutiamo il professore. No, io volevo semplicemente chiedere al professore, in tutta onestà, se è ottimista o pessimista per il verdetto dell'8 agosto, perché le cose che ha detto sono ineccepibili, ma siccome conosce anche l'ambiente, allora, che sarà chiamato a giudicare. Allora, è difficile, siamo a 4 giorni, noi non sappiamo di preciso a che ora inizierà l'udienza, non sappiamo quanto durerà, non sappiamo quanto tempo ci verrà messo a disposizione, perché anche la IAF presenterà una sfilza di testimoni, mentre noi la maggior parte li abbiamo dovuti lasciare in Italia perché Alex non aveva i soldi per affrontare queste ulteriori spese, già dissanguato dalla spesa che ha sostenuto per il procedimento di Losanna. E quindi, tenendo conto di queste limitazioni, è dura. Se potremo esprimerci, se io ad esempio potrò esprimermi, io credo di riuscire a spiegare in maniera compiuta chi è realmente Svizzera e quanto sia totalmente lontano dal doping. Non fa il doping una persona che proprio pochi giorni prima o 3 settimane prima ha mandato alla WADA una dichiarazione con cui si rendeva disponibile a controlli 24 ore su 24. Sì, sì, sì, sì, e non fa il doping uno che ha rinunciato agli antiasmatici, alla tenda ipobarica, eccetera, eccetera, che prima usava sistematicamente. Sì, sì, è chiaro? Sì, sì. Sì, cambiamento molto di vita totale, ed era l'unico modo per allenarsi con me. Ma questo non è accettabile, questa è la verità. Grazie professore, in bocca al lupo, ne siamo vicini. Grazie. Grazie, grazie Sandro Donati. Con colpevole ritardo c'è la borsa, mi scuso. Io vorrei vedere alle Olimpiadi il salto della quaglia. Tutti convocati. il prosecco e i lombrichi, la spara parmigiano e i pomodori idroponici. Ma anche fritture di meduse. O risotti di alghe. E le olive spremute con gli ultrasuoni. E i frutteti verticali. Tutto questo è Food Lab, il programma che vi racconta le tecnologie per il cibo del futuro. Federico Pedrocchi. Chiara Albicocco. Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì alle 15. Qui su Radio 24. Beh, di solito gli amici immaginari sono meno inquietanti di così. I miei sono personaggi con i quali sono cresciuto attraverso la televisione, il cinema, i fumetti. Se volete, ve li presento. Sono Giovanni Savarese. Vi aspetto ad agosto con L'Amico Immaginario, ogni sabato alle 23 e la domenica alle 14, naturalmente qui, su Radio 24. Convocati alle Olimpiadi. Io alle Olimpiadi voglio vedere il tiro alla fune e la corsa nei sacchi. Allora, siamo già via WhatsApp 349-238-6666 al salto della quaglia, il tiro alla fune e la corsa coi sacchi. Non credo sia nei piani del Comitato Olimpico per il momento. Qui tutte le sere a parlare di Olimpiadi con sottoscritto Giovanni Capuano, Leo Turrini da Rio, Ettore da Piacenza. C'è anche chi propone le bocce in salita. Le bocce in salita, ma anche il Mounted Games, sport equestre spettacolare mounteggiato dalla Federazione Italiana che predilige discipline prioritarie. Calcio a 7. Calcetto. Scrivono 349-238-6666. Sì, e le squadre Ettore, dei bar Ettore. Come partecipanti. Ettore. Buonasera, vi seguo con piacere, come ho seguito l'altro giorno la conversazione con un Gino Capodacqua che stimo moltissimo, di cui leggo le cose sia sul suo blog che su Repubblica, mi ha fatto molto piacere ascoltare una delle rarissime dichiarazioni audio di Alessandro Donati, che è un uomo che il doping l'ha pagato sulla sua pelle, ovvero la lotta che ha fatto al doping. Ho davanti a me un libro che è introvabile, che penso non abbia nemmeno lui, da quello che ho capito in una sua intervista, che è Campioni senza valore, lo scrisse nell'89 con prefazione di Gianni Minà, non si trova in circolazione, ma è più stato ristampato, la fotografia della copertina di Ben Johnson. In quel libro Donati aprì e svelò per la prima volta lo squarcio su quello che era il doping di Stato delle varie nazioni, compreso quello fatto dall'Italia, cioè degli atleti che venivano mandati in certi posti per fare determinate cose, per portare a casa medaglie. Fu quello che aprì lo squarcio e svelò il salto truccato di Evangelisti ai mondiali di atletica e ha pagato tutto questo sulla sua pelle. Quello che giustamente avete detto voi lateralmente, che io condivido, è che la lotta che si fa a Schwarzer, che sarebbe evidentemente un fesso a farsi assistere da Donati e a farsi quello che ha fatto a livello di mazzo per poter dimostrare che si può andare puliti, è una lotta a Sandro Donati, perché quello che sta dicendo da anni, quello che ha detto adesso, le dichiarazioni che sono venute fuori, ma tutte le problematiche legate a come sono stati fatti i controlli, che Capodacqua ha ben descritto e documentato, sono lateralmente la volontà di annientare uno. Ma io ho questa idea, io ho questa idea e me la tengo, Leo. Io la condivido al 100%, perché ne parlano le opere e quello che ha fatto Donati negli ultimi 40 anni e quello che poi è chiaro, ma lui ha rotto le scatole in maniera pesante per un sacco di tempo a molte persone influenti, no, Leo Turrini, ed è per questo che io sono pessimista comunque sull'esito io ho chiesto al professore come si aspetta lui. Io sono pessimista perché il clima che respiriamo qui a Rio non è favorevole a una riabilitazione di Alex, anche perché non dimentichiamo il contesto, cioè questa è un'Olimpiade che è stata preceduta dall'enorme scandalo del doping di Stato russo, certo. E quindi in questa fase dalla Federatletica allo stesso CIO fanno a gara per mostrare la faccia feroce. Dovrebbero avere un enorme coraggio considerata l'atmosfera, appunto, per concedere quantomeno il beneficio del dubbio al nostro marciatore. Io ripeto, tutte le volte che sento parlare di questa vicenda rimango basito, perché emergono sempre nuovi particolari che inducono a sospettare che si sia in presenza, insomma, di qualche cosa di orrendo, orchestrato alle spalle di un atleta, del suo allenatore. Al tempo stesso, siccome sono io, devo anche essere onesto con me stesso e con tutti voi, i complotti bisogna provarli, eh. Sì, eh. Perché io l'altro giorno... ma è questo è il grande dubbio. Questo è il grande dubbio. Carlo, l'altro giorno io ho intervistato Gelindo Bordin, no? Sì. Grande oro olimpico in maratona, c'è uno nell'88. E gli ho chiesto come la pensasse su questa cosa. E lui mi ha detto, guarda, io sono convinto che Schwarzer sia un atleta che avrebbe potuto vincere tranquillamente anche a Londra senza doping, no? Ho detto, però faccio fatica a immaginare che adesso ci siano persone nel mondo che si sono messe lì ad architettare questa cosa, no? Semplicemente per screditare e demolire la figura del professor Donati. E anche questa è un'osservazione che dobbiamo tenere presente. Ma certo. Io sono innocentista, eh. Anch'io lo sono diventato, per la verità, perché la prima reazione fu di una rabbia feroce. Sì, non è così semplice, capisci? Anche per un innocentista come me. Grazie, Leo. Poi come... Insomma, è così, ecco. Leo, ci sentiamo domani e tutti i giorni, Beh, il telefono funziona, volevo solo aderire anch'io alla gara Nuove Sport Discipline Olimpiche. Propongo il tiro al ciccione, non al piccione, al ciccione. C'è chi chiede l'acchiappo alla gallina. Un gran parlare della necessità di ridurre l'obesità nel mondo, no? Tiro alle ciccione, però gli si tirano palline di carta. No, ma sì, certo, ma tiro al ciccione. Ma il tiro alle ciccione mi piacerebbe molto. Ma non so, ma anche i ciccioni maschi, sì, per l'amor di Dio. No, io non faccio differenza, tiro al ciccione. A domani, A domani, Leo Torrini. Allora, non abbiamo tempo, credo, abbiamo tempo di parlare con Francesco. Al volo, al volissimo, Francesco da Grosseto. Buonasera a tutti. Sento un po' di riverbero, non so se è normale. No, dica. E niente, io ho chiamato perché mi volevo, diciamo, immolare, farmi fautore e portavoce di uno sport molto giovane che secondo me ha bisogno di essere conosciuto, che è il kitesurf. Sì. E è uno sport che già sta tentando di diventare olimpionico da qualche anno. Ci è arrivato molto vicino qualche anno fa con la modalità di regata. Sì. E poi invece è stato posticipato. Guardi, per io le dico subito come la penso. Se c'è il surf, se c'è il windsurf di cui il kitesurf è assimilabile, non vedo per quale ragione questo sport, che è uno sport vero, debba essere escluso. Torneremo a parlarne anche con i vostri WhatsApp. Adesso ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con i nostri amici fuori posto che stanno arrivando. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Ed eccoci qui, adesso siamo con le nuove superstar di Radio 24, con i fuori posto Umberto Alezio, Filippo Roma, che vi tengono compagnia ogni mattina. Troppo alle buono. 10. Ci piace questo termine superstar, Carlo, sei veramente un amico. Siamo in debito con Carlo. Siete in debito con me. Tocca dargli qualcosa a Carlo, eh. Tocca dargli qualcosa, io... Se mi permette... Io un paio di te ce le ho. Che vorreste? Tipo? No, lasciamo stare, lasciamo. Cioè, faccia protetta un po'. Umberto, abbiamo poco da darti, ho quasi nulla. Poi, Filippo, sei veramente più brutto del solito oggi. E tu fai cagare, scusa, te lo dico. Grazie, sempre molto gentile. Meno male che è tornato l'amore tra voi. Comunque, io mi sento in debito con Carlo. E ho pensato di portargli in dote una superstar, no? Che in questo momento è a Rio per fare il suo lavoro. Questa musica, non è a caso, no? Perché questa è una musica che serve per darti la carica, no? Un po' come lui è il più famoso dei mental coach, dei motivatori in Italia, è stato il primo, è famosissimo. I suoi libri vendono milioni e milioni di copie. Vi dico solo qualche titolo: Leader di se stesso, Cambiare senza paura, Raggiungi i tuoi obiettivi. E qui con noi, a tutti convocati, angolo fuori posto, fuori Olimpiadi, Roberto Re, direttamente da Rio. Ci sei, Roberto? Ciao Roberto. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno. Ciao a voi. Grazie di essere con noi. Io vorrei diventare tuo cliente, non so se è possibile, visto che tu sei mental coach di alcuni tra i più famosi atleti italiani, tra cui Jessica Rossi, ma non solo. Chissà se i ragazzi qui mi portano nella tua scuderia. Mi piacerebbe. Parliamone. Ci mettiamo una parola buona, dai, cerca di prenderlo. Ragazzi. Ti dico subito, Robè, che qua siamo tre casi disperati, eh? Cioè, nel senso che siamo tre disadattati. Allora, la cosa che ti volevo chiedere, ti volevamo chiedere, perché ci incuriosisce, no? Tu, che la prima domanda che mi viene da farti, no? Poi sicuramente ce ne saranno delle altre di Carlo e di Filippo. Allora, il nostro programma, quello che va in onda al mattino, si chiama I Fuori Posto, no? Parla di persone che almeno una volta nella vita si sono sentite fuori posto, no? A chi di noi non è capitato? Tu, che invece sei un motivatore, che includi, sei inclusivo, dai la carica a migliaia di persone, ti sei mai sentito una volta nella vita almeno fuori posto? Una marea di volte, non una volta nella vita. Hai detto bene tu, cioè, quando tutti quanti ci sentiamo di volta ogni tanto fuori posto. Io credo che ci si senta fuori posto soprattutto ogni volta che devi affrontare qualcosa di nuovo, ti trovi a avere una sfida più grande rispetto a quella della volta precedente. A me, quando chiama, che ne so, l'atleta super importante, o l'azienda grandissima, o mi devo trovare alla convention con 10.000 persone, c'è sempre, no, quella parte di te che ha un pizzico di paura di non farcela o di non essere all'altezza. Siamo esseri umani, è assolutamente normale. Il problema non è quello di ogni tanto sentirsi fuori posto, ma poi capire che hai le chance, le possibilità, le capacità per giocartela a me. Io mi sento fuori posto tutti i giorni, anche quando faccio le cose che faccio normalmente ormai da anni, cioè parlare in radio di sport, quindi sono altro che un caso disperato. Senti, ma cosa... Però lo fai lo stesso, no? Sì, quindi lo faccio, ci provo. Ed è pure bravo, ed è pure bravissimo. Bravissimo. Il problema non è sentirsi fuori posto. È esserlo. La cosa importante è avere la capacità di trovare dentro di sé le risorse per fare comunque quello che va fatto. Senti, ma quali corde vai a pizzicare negli atleti in particolare? Cioè, dove agisci? Come fai? Ma guarda, in realtà quello che io faccio è molto più semplice di quello che sembra. C'è un po' il paragone ideale, quello con il preparatore atletico, no? Il preparatore atletico studia il corpo umano e sa, e quindi in base all'atleta che ha davanti, qual è il programma migliore per farlo rendere al meglio dal punto di vista fisico. Ecco, il mio lavoro è un po' la stessa cosa da un punto di vista mentale. Ci sono, la mente può essere allenata come un muscolo, solo che non ce l'hanno mai insegnato, ma in realtà noi condizioniamo noi stessi ogni giorno, in positivo e in negativo, e diventare un po' più consapevoli di come questo accade nella nostra testa ci permette poi di ottenere risultati migliori, di poterci gestire un po' meglio. E le Olimpiadi sono in assoluto per un atleta la situazione più difficile, ecco, perché Roberto, magari è importante. Ma che area tira lì a Rio? Tu sei a Rio, cosa fai praticamente con gli atleti che segui? Cioè, che gli dici, se gli ripeti sei il più forte, sei il migliore, sei no, il più... No, infatti... Guarda, non si fanno quelle cazzate lì da film alla Rocky, non è? Ecco, ho detto subito una cazzata, ecco, perfetto, buonasera. No, salve. Cioè, tu pensa, se uno va lì da questo, che è un campione esagerato, dice puoi farcela, ovvio che il training mentale non è quello, ma in realtà è proprio, c'è proprio tutta una serie di esercizi, si utilizzano delle tecniche di visualizzazione, di usare la parte del nostro cervello che anticipa, no, gli eventi, quindi preparare la gara mentalmente, come voglio essere, comportarmi nelle situazioni difficili, come gestire la situazione. Quindi è proprio tutto un lavoro di training mentale che ovviamente oramai siamo agli sgoccioli, quindi affiniamo il lavoro che è stato fatto nei mesi precedenti. Ecco, Roberto, tu sei un esperto. Ce la possiamo fare. E a proposito di potercela fare, ti voglio chiedere, ma tu sei anche un esperto in miracoli per caso? No, mi sto attrezzando, ma ancora. Allora, vediamo se puoi darci una mano, perché il mio collega qui ai Fuori Posto, Umberto Alezio, sta biegamente usando la radio in queste prime puntate per poter riconquistare la sua ex, cioè la donna che l'ha giustamente lasciato qualche tempo fa, gettandolo nella più tremenda disperazione. Ecco, tu da mental coach, Che consiglio daresti a sto poraccio Umberto per riconquistare la sua ex? Non esagerare, poraccio, vabbè. Io mi avvalgo della consulenza che mi risponde. Prima cosa cercherei di capire se ancora c'è qualche possibilità oppure no. Da come tu parli sembra di dire che non ce n'è più, insomma. Che non è. Cioè, per cui, così lo vedo di subito. Quindi speranza zero? Non lo so, non ho idea di come sia la situazione, però se così fosse cercherei di aiutarlo ad accettare la situazione, insomma, dopo tutto. Sto per salire all'ultimo piano del grattacielo di Radio 24. Le sconfitte ogni tanto vanno accettate nella vita come nello sport. Senti, non devi accettare, non c'è più niente da fare. Quindi manco un miracolo di Roberto Re può salvare questa cosa. Neanche Roberto Re, siamo agli sgoccioli, siamo alla frutta. Dai, ma chiodo scaccia chiodo, si dice. Ah, dici? Ma perché no? Ma il mondo è pieno, non solo, mica solo il Brasile, mica siamo tutti fortunati come Roberto Re, noi siamo a Milano. Qualcosa però, c'è pure a Milano, dai, ma sì, c'ha ragione Carlo, dai, su Umberto, su, Roberto, dai. Roberto, perché sei lì? Cioè, cosa stai facendo? Dacci qualche curiosità, no, in diretta da Rio. Beh, allora, intanto vi posso fare un po' di gossip. Eh sì, magari. Stanno ancora lavorando alla Cremente, cioè, credo che sia l'unico paese che riesce ad arrivare più in ritardo e più last minute di noi per eventi importanti. Al confronto, io... in Italia sto a Milano, l'Expo era in anticipo con le preparazioni. Hai capito? E poi criticano gli italiani. Quindi stanno ancora lavorando, sono qua. Ma gli atleti che stai seguendo, come stanno? Gli atleti che stai seguendo, come stanno psicologicamente? Bene, guarda, ho sentito ieri Jessica per telefono, insomma, tutto bene. Credo che da quel che so, in generale c'è un ambiente bellissimo nel villaggio olimpico e sono tutti molto, molto pronti da quel che ho sentito. Senti, ma ti chiedono tutti di vincere, cioè l'obiettivo è la vittoria, punto e basta, oppure possono esserci obiettivi intermedi, possono esserci altri traguardi sportivi da raggiungere? Beh, sai, nello sport insomma conta chi arriva uno, no? Esatto, sì, sono arrivato uno, sì. Però sai, ci sono atleti che sono ad altissimo livello, però magari non possono competere per il podio. Io credo, quello che io cerco di fare con un atleta è sempre aiutarlo a poter rendere al suo meglio e poter far sì che la sua mente possa lavorare al meglio nel momento della prestazione. Poi è ovvio che lì ti giochi le carte che hai, ma è evidente che se il tuo avversario è più veloce di te nei 100 metri, ce l'ha lui. E quando perdono, cosa gli dici? Beh, allora, è giusto che ci sia un attimo di delusione, perché insomma loro vivono per questo. No? Però poi la cosa importante è anche dalla peggiore e più cocente delle sconfitte è imparare qualcosa. Se tu capisci e impari qualcosa e lo metti a frutto nella prestazione successiva, allora quella sconfitta diventa un tassello importante per un successo successivo. Se invece rimane solo una sconfitta e viene vissuto come un fallimento, invece è assolutamente negativo. Io volevo togliere una curiosità, perché a me attizzano molto queste cose. Io sono un seguace di Phil Jackson, che tu certamente conosci, allenatore di Michael Jordan, sì, di Kobe Bryant, 11 anelli, eccetera eccetera. Ho letto tutti i suoi libri e lui insiste molto su questo aspetto. Forse è stato il primo grande allenatore a portare questo aspetto nello spogliatoio: la meditazione, la necessità di sedersi riuniti in circolo in silenzio per alcuni minuti. E poi ci sono vari altri aspetti, e suonava il tamburo come gli indiani per chiamarli a raccolta, e bruciava la salvia, che qualcuno diceva non era salvia, eccetera eccetera. Cosa ne pensi di questo? Non lo so, però c'è Kobe Bryant che dice, ma dice che bruciava la salvia, io non lo so, avevo un odore strano. Non odorava molto di salvia. Però questo dice la leggenda. Al di là del fatto che per Phil Jackson parlano i risultati, quindi qualsiasi cosa facesse va bene, però in generale nello sport queste cose sono importantissime. Parlavi della meditazione, al di là della meditazione un atleta ha bisogno di alcuni momenti dove stacca con la mente, dove riesce a creare pace dentro di sé, perché se arriva in gara con lo stress addosso e con la tensione addosso rende pochissimo. Poi i metodi per fare questo sono tantissimi, per alcuni la meditazione è noiosa, per altri è miracolosa, quindi l'importante è trovare per ognuno quello che può essere il metodo ideale che lo aiuta a avere una gestione migliore della parte interna di sé, che poi è quella che determina la prestazione più di tutti. Senti, senza fare nomi, l'ultima cosa, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. C'è stata una richiesta assurda da parte di un atleta, anche in passato, non è detta durante queste Olimpiadi, c'è stata una richiesta che tu hai detto questo sta fuori? Così a voce aperta quello non mi viene in mente niente, però in generale ti posso dire la componente mentale non fa miracoli, è solo una delle componenti, no? Quindi se tu sei un brocco, non è che se mentalmente sei più forte brocco rimane, insomma, quindi devo essere anche consapevole delle mie potenzialità. Quindi ho capito che su di noi c'è degli obiettivi. Anche se c'è Roberto Re, se io e te ci mettiamo a correre possiamo essere mentalmente preparatissimi, ma non vinceremo contro Bolt. Vabbè ragazzi, già ha detto che noi siamo tre casi disperati e quindi miracoli non ne può fare, c'è una pietra sopra, c'è poco da fare. Io volevo ringraziare, oltre a Roberto Re, naturalmente i miei amici fuori posto, sempre più miei amici, Umberto Alezio e Filippo Roma, per avermi introdotto a queste preziose conoscenze. Grazie. Siamo noi che siamo in obbligo con te. Guarda. Grazie, grazie. Intanto però vuoi ricordare il nostro programma dal lunedì al venerdì? Fuori posto dal lunedì a venerdì alle 10 del mattino, dalle 10 alle 11, e poi è facile perché in replica subito dopo Tutti convocati alle Olimpiadi, quindi alle 20. O se si dovessero perdere pure la sera, c'è la nostra pagina ufficiale Facebook Fuori posto. Quindi ovunque. Grazie ragazzi. Grazie a te, Carlo. Grazie a te. Grazie Roberto, salutaci Dio. Ciao Roberto. Grazie a voi. E in bocca al lupo a tutti, Forza Italia. Torniamo subito, c'è il GR, ma subito dopo torniamo con Olimpiadi. Tutti convocati. Convocati alle Olimpiadi. Sono rotelle da skateboard in uretano. Con queste uno può curvare proprio come con la tavola da surf. Sì, e ci puoi anche scalare i muri perché grippano. Grippano? Grippano. Grippano. Allora, abbiamo messo insieme tutte e due Surfing USA, classica canzone da surfisti, e lo skateboard surf con le rotelle sotto, che ci si può, che dice? Screcciare sui muri? Sì, una cosa del genere. Chissà se magari è una delle cose richieste per vincere la medaglia a Tokyo 2020, dove lo skateboard e il surf ci saranno. Luca Basilico, coordinatore della Commissione Italiana Skateboard, buongiorno. Buongiorno. Siete impegnatissimi nel fare festeggiamenti a raffica? Più o meno, dai. Senti, certo, è stata una notizia abbastanza dirompente per tutti. Dirompente, ma quanta gente c'è che fa skateboard a livello agonistico in Italia? Perché io non so, ti dico, non so nulla, ci vanno i miei bambini anche abilmente provocandosi dei grandi speloni, ma non so nulla. Guarda, si stimano tra i 10 e i 15 mila frequentatori degli skatepark in tutta Italia. Di questi, plausibilmente un quinto sono quelli che vanno seriamente, come si dice. Quindi 2000. Sì, mi sembra. Quindi riusciamo in 4 anni a costruirci una medaglia o no? O roba da americani? L'Italia, benché insomma siamo distanti dai fasti statunitensi, dove lo skateboard è nato ed è praticato sempre ad un alto livello e con alti numeri, però abbiamo sempre avuto degli ottimi talenti, e anche in questo periodo particolare non ne lesiniamo, diciamo così. Proprio in questi mesi c'è un ragazzo di Torino che si chiama Ivan Federico, che ha vinto anche vari contest internazionali. Ma per tutti quelli, e ci sono anch'io, lo confesso, un po' scettici, che dicono cosa ci fanno queste discipline alle Olimpiadi, allora ti diamo un minuto di tempo per convincerci che lo skateboard è sport e non solo un passatempo, un divertimento. Ma lo skateboard è anche sport, lo skateboard è un'attività completa in cui gli appassionati si immergono a 360 gradi, e forse anche per questo che si sentono limitati nel venire definiti solo degli sportivi. Poi sai, come in tutte le attività, ognuno sceglie di viverlo un po' come crede, qualcuno lo vede più come una forma d'arte, qualcuno lo fa un po' più sportivamente, però è uno sport di fatto. È uno sport di fatto, è anche come il surf una filosofia di vita. Beh, io me l'immagino così, no? Cioè, l'immagine del surfista che, come diceva prima Leo Turrini, che ha difeso lo skateboard alle Olimpiadi di Tokyo, la presenza dello skateboard alle Olimpiadi di Tokyo, è un surf sulle ruote, è così? Beh, a lato pratico sì, insomma, è da lì che viene, di conseguenza il legame non si è mai perso, anche se lo skateboard ha avuto una evoluzione tecnica che poi ha invertito un po' le parti. A un certo punto i surfisti hanno cominciato a imitare le manovre che gli skater fanno sulla spike, mm-hmm. E però la realtà è, insomma, è proprio quella, da lì si arriva. Vabbè, allora buona festa Luca, a te e a tutti gli skateboarder, si dice così, skateboarder, no? Esatto, o skateboarder, skateboarder, perfetto, buona festa a tutti, festeggiate a base di sake, che poi si va a Tokyo fra 4 anni. Ciao Luca, grazie. Sarà fatto, buona serata. Ciao, ciao Luca. Allora, Basilico. Calcio tennis, Gerardo da Luca, che poi è il foot volley, e poi c'è chi dice l'agility dog, bellissimo sport di sintonia tra uomo e cane. dicevi? Agility Dog. Gianni Valenti, Gazzetta dello Sport. Ciao, buonasera. Ciao Gianni. Buonasera a voi. Ti piace l'Agility Dog? Aspetta, io no. Dice diretto, volevo far sentire, che mio caro amico, volevo far sentire invece, proprio su questo argomento, una musichetta che magari si ricorda, che avevamo preparato per questa sorta di sondaggio che abbiamo fatto anche tra gli ascoltatori, con i messaggi sonori WhatsApp eccetera. A proposito, che continua 349-238-6666, i vostri messaggi vocali. C'è chi suggerisce la pesca alla mosca, la cerca dei funghi a Cerreto, Fangian, campionato italiano, insomma ce ne sono diversi di sport bizzarri. Che avevo letto anche un'ipotesi tempo fa, un'ipotesi di nascondino a Tokyo come sport sperimentale. Allora, l'unica cosa che a me viene in mente è questa. Secondo me Gianni Valenti te la ricordi questa. Ma sarà che sento male col telefonino, ma non me la ricordo. La sigla di Giochi Senza Frontiere. La sigla storica, però, quella anni 70. Quella anni 70. C'ero Pancaldi, se non sbaglio, no? Sì. Pancaldi e Olivieri che fischiavano Olivieri. Il fil rouge. Fil rouge. Sì. No, però, insomma, adesso ci stiamo scherzando sopra, però secondo me si allarga un po' troppo e spesso in maniera spropositata. La lista dei giochi olimpici. Quello che dico io è che non c'è bisogno di andare alle Olimpiadi per avere la dignità di un bellissimo passatempo, per avere tanti praticanti, per divertirsi. Non c'è bisogno di avere la medaglia d'oro olimpica. Ma hai ragione, guarda, il problema io penso che sia sostanzialmente questo. Queste aperture spot a giochi a seconda di dove i giochi vengono, no? Vengono effettuati, per esempio a Tokyo avremo il karate, avete già sì. Detto di altri sport, è un problema. Le Olimpiadi stanno cercando di trovare una formula nuova, paese per paese, a seconda di dove vanno, per cercare un po' di svecchiarsi, per cercare di attirare maggiore interesse, no? Questo è uno dei problemi dei giochi olimpici, insieme all'altro grande problema, che è il problema economico. Chiaro. E cioè l'Olimpiade non più sostenibile o difficilmente sostenibile in una sola città, e che secondo me andrà sempre di più e diventerà sempre di più un'Olimpiade Stato, e cioè un'Olimpiade diffusa nelle città più importanti di uno Stato. Come accade per i mondiali, insomma. Sì, esattamente, guarda, io credo che sia debba essere così, perché in qualche modo non grava su una sola città, premia più città, perché abbiamo esempi virtuosi nella storia delle Olimpiadi, di città che dalle Olimpiadi sono rinate, no? Hanno trovato una nuova vita, ma sono rinate nelle strutture base per i cittadini. L'esempio più vicino a noi è probabilmente Barcellona, no? Sì, certo. Che è comunque distante oltre 20 anni, stiamo comunque sì. Cominciando ad andare indietro nel tempo, perché noi siamo cresciuti con il mito di Barcellona 92. No, però io posso dirti che anche l'Olimpiade invernale di Torino è servita a Torino a cambiare pelle, a cambiare faccia, a diventare una città più gradevole, più importante, e soprattutto a far sì che gran parte degli impianti che vengono costruiti ex novo, non parlo solamente di infrastrutture, ma di impianti sportivi, ecco, gran parte di questi impianti possano poi essere riutilizzati dai cittadini e dalla gente di quella città o di quelle città. Ecco perché io credo che l'Olimpiade più diffusa possa avere un futuro migliore. Certamente Gianni, certamente, soprattutto puntando sulla riutilizzabilità di questi impianti e non lasciare delle cattedrali nel deserto. Senti, domani la Gazzetta dello Sport. Del resto, scusate, Giovanni, è un po' tutto lo sport che costa troppo. Cioè, noi siamo alla vigilia di un quadriennio che ci porterà un europeo organizzato in 12-13 nazioni differenti, ma non tanto perché Platini l'aveva pensata. No, perché non ci sono i soldi per fare un posto solo. Si faceva fatica a trovare qualcuno che... Sì, si facevano fatica a trovare un paese unico che avesse i soldi per organizzare. Stiamo parlando del campionato europeo, cioè non parliamo del mondiale, non parliamo delle Olimpiadi, c'è bisogno di una grandissima dieta. E quindi, insomma, io credo che anche dal Brasile, ho letto ad esempio che il CIO ha detto mai più Olimpiadi in paesi che hanno delle problematiche. Sì, solo che quando sono state assegnate, il Brasile viveva tutt'altra situazione, no? Chiaro, per cui è un po' questa. Senti Gianni, domani la Gazzetta dello Sport esce ovviamente con l'insertone, mega inserto sulle Olimpiadi, in cui parlate un po' di tutto, dai momenti clou dell'Olimpiade, cioè una sorta di abbecedario per vivere Rio, giusto? Sì, soprattutto per tenerlo lì sul comodino e vedere per esempio quali saranno i 10 o 12 momenti più interessanti da non perdere, sapendo che le Olimpiadi sono di notte. Le gare più importanti saranno di notte, le finali saranno di notte, per cui dovremmo segnarci sul telefonino la sveglia e svegliarci per non perdere per esempio i 100 metri di Bolt piuttosto che la finale di Federica Pellegrini. Sì, è un inserto di 20 pagine che si somma, devo dirti, alle pagine di attualità che avremo domani sulle Olimpiadi, per cui sarà un numero veramente molto ricco. Con anche le nostre previsioni di medaglie. Quindi quante ne prendiamo? Noi ti abbiamo chiamato solo per questo. Noi siamo sempre ottimisti, perché lo spirito della Gazzetta è quello di essere ottimisti, e per cui noi segneremo un numero che è 29. 29? Che sono tante, addirittura. Che sono tante. Credo che Malagò vi bacerebbe in fronte. Beh, Malagò è sceso da 25 a 20, no? No, noi ne mettiamo 29, insomma speriamo di riuscire ad avvicinarci a questo numero, di centrare addirittura questo numero. Già il primo sabato, sapete, sarà un sabato importante, perché poi noi abbiamo subito questo obiettivo, arrivare alle 200 medaglie d'oro delle Olimpiadi. Secondo la Gazzetta la medaglia d'oro sarà? Sabato. Ma non lo so se sarà sabato, però sabato abbiamo dei nostri rappresentanti importanti, uno su tutti, Nibali, nel ciclismo. E io, se non ricordo male, a Londra vivemmo una seconda giornata straordinaria con 5 medaglie. Sì, vado a memoria, qualcosa di unico. C'era forse Fioretto, se non sbaglio, adesso non ricordo bene, però sì, vivemmo una giornata eccezionale, ma a Londra vivemmo un paio di giornate niente male. No. Speriamo di viverle anche a Rio, di queste strane Olimpiadi che però hanno un fascino. Scriveva l'altro giorno Sandro Veronesi proprio da noi sulla Gazzetta, il fascino della notte, no? Il fascino di alzarsi di notte e vedere, assistere a una gara, insomma è qualcosa di un po' diverso, per cui non è detto che l'Olimpiade troppo lontana possa essere negativa. No, ci mancava da un po' di anni. Esatto. Gianni Valenti, grazie. Senti, grazie se non sono 29, il 21 ti chiamiamo, Va bene. L'ultimo giorno ti chiamiamo. Ma perché sono 30, Gianni Valenti, direttore della Gazzetta dello Sport, sono 30 secondo te. Saranno 30 e quindi noi dovremmo rinfacciare il pronostico sbagliato. Hai sentito cosa ha detto oggi Renzi? Ha detto due cose abbastanza interessanti, se a proposito di medaglie e a proposito della candidatura di Roma. Giuliano da Perugia, lei stia lì, Poi oggettivamente l'Italia è in campo, la candidatura di Roma è insieme a quella di Parigi, di Los Angeles e di Budapest allo spazio finale, allo scatto finale, al rush finale. Da quello che vediamo qui, Roma è sicuramente, sinceramente, in pole position. Ora c'è la tregua olimpica anche su questo, quindi evitiamo le solite polemiche. Anche chi vede non di buon occhio le Olimpiadi sicuramente farà un grande tifo per gli atleti azzurri, per cui per 15 giorni parliamo soltanto di sport. Domenica siamo in Italia, cioè io, quindi siccome ieri Malagò ha chiuso dicendo vinceremo la medaglia numero 200 subito, ecco, chi volesse vincerla, abbiamo detto ragazzi, dovete sbrigarvi, non per mettere pressione, vero? Nibali l'ha presa bene. Oh, Ciccio, Ciccio. Adesso la Ciccio, metto scherzando, sbrigati a vincere questa medaglia, Ciccio. Amici, questa cosa qui Ciccio non si dice, però, non si dice. E poi ha detto anche: oh, se siamo qui a Rio, guardatevi intorno, cioè magari riusciamo a fare pure meglio. Magari no, magari i brasiliani potrebbero fare un giro a Roma e avere qualcosa da obiettare. O forse ha ragione lui, chi lo sa, chi lo sa. Lo sa Giuliano, che le sa tutte. 800 24 00 24, numero verde, dica. Niente, buonasera, io volevo intervenire perché ho visto che avete lanciato questo sondaggio sugli sport olimpionici, olimpici, come vogliamo dire. Sì. E una richiesta, una domanda che mi sono fatto, la pongo a voi se sapete rispondere. Per esempio questa: perché non è stato mai inserito fra questi giochi, questi sport, diciamo, il pattinaggio artistico su rotelle, che è molto diffuso in Italia, più forse che quello su ghiaccio, che è olimpionico, perché anche per problemi di impianti, che è altamente tecnico, forse pari o anche più il ghiaccio. Appartiene alla stessa federazione del pattinaggio su ghiaccio e all'hockey. C'è un sport olimpionico che è quello del pattinaggio in linea, però non c'è il pattinaggio artistico, che è praticamente l'equivalente su rotelle di quello su ghiaccio, perché ha gli stessi tipi di salti, gli stessi tipi di componenti tecnici, e non è mai stato inserito. E ad esempio è uno sport che anche in Sud America si sta molto diffondendo, tra cui il Brasile, per cui non mi domando perché non c'è stata da parte anche della federazione mai una così forte richiesta, avendo altri sport. Solitamente serve una diffusione ampia, che evidentemente non viene riconosciuta al pattinaggio artistico su rotelle. Poi c'è anche un limite agli sport, diciamo la verità. Credo siano 28 le discipline che sono in questa Olimpiade. Si sta pensando di aumentarle a 30, però già a Rio ci sono oltre 10.000 atleti. Parlavamo prima del gigantismo di queste manifestazioni. È necessaria una dieta anche nel numero delle persone che poi sei costretto ad ospitare per poter organizzare queste manifestazioni. Io credo che il nodo sia qui. Oh, c'è qualcuno, Patrick, che scherza, dice: se a Tokyo vanno surf e skate, io da scozzese voglio il lancio del tronco. Il lancio del tronco alle Olimpiadi. Ha ragione, è un meraviglioso. Però col kilt. Sì, col kilt. Poi il CIO ha recentemente riconosciuto come possibile sport olimpico l'ultimate frisbee. Sport fantastico, scrive un amico, e l'Italia potrebbe fare molto bene, quindi noi lo vogliamo. Se possiamo prendere un paio di medaglie, noi. Una bella gara di Pokémon Go, mi scrivono. Una bella gara di Pokémon Go. Pokémon Go, no, forse quelle dopo Tokyo. Forse a Roma. Pokémon Go a Roma ci starebbe, eh? Alle Olimpiadi di Roma Pokémon Go ci starebbe. Che c'è? So che c'è la borsa, ragazzi. Mica sono ricoglionito, ma non così tanto. Borsa. Ragazzi, secondo me a Tokyo 2020 c'è il rischio che introducano il Pokémon Go. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Convocati alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi vogliamo il beach tennis, alias racchettoni. Qua in Romagna c'è solo quello. Gioco olimpico potrebbe essere il gioco delle biglie sulla spiaggia. Beh, ragazzi, stanno dando il meglio di se stessi con questi messaggi vocali WhatsApp che continueranno ad arrivare. 349-238-6666, che vogliamo sempre più numerosi. Intanto, tra quelli che già ci sono di sport olimpici, in vela, judo e pallavolo saranno presenti i rappresentanti della Russia. Così ha deciso il CIO, riammissione. Quindi ammissione di questi sport, pass del CIO per le delegazioni russe di questi sport, vela, judo e sì, e soprattutto pallavolo. Vanno anche quelli che erano stati squalificati dalle federazioni dopo il rapporto della WADA, quelli che magari avevano in passato scontato delle squalifiche per doping e erano stati messi dei paletti dentro tutti. Stai pensando a Schwarzer? No, sto pensando alle parole di Sandro Donati, però di Sandro avranno Donati. Ragione loro, probabilmente. Che scrive il golf, che c'è già con una pessima figura perché di questa prima apparizione olimpica, perché la maggior parte dei grandi golfisti ce ne frega, non andrà a Rio. A Saronno ci sono state le Olimpiadi della saldatura, se le portiamo a Tokyo 2020 medaglia d'oro sicura. Dario Ricci, ciao. Ciao ragazzi, un saluto da Rio. Che sport vorresti alle Olimpiadi e che non c'è? Domanda bruciapelo che... La stiamo facendo agli ascoltatori, siamo alle Olimpiadi della saldatura, al lancio col tronco, la corsa delle bighe, il Pokémon Go... La corsa delle biglie è stuzzicante, però certo a quel punto anche giochi invernali, la corsa delle slitte. Sì, Leo Turrini ha proposto il tiro alla cicciona. Ovviamente con oddio. No, o anche al ciccione. O anche al ciccione, per ovviamente la parità, cioè maschile e femminile, ovviamente con palline di carta in offensive. Certo, oppure anche la gara ai baffi più lunghi, così riscopriamo un po' le origini, no? Perché alle origini, tipo l'Olimpiadi di St. Louis e cose di questo tipo, si faceva in occasione delle grandi fiere e cose esatto. Di questo tipo, gare di questo tipo c'erano, eh? Esatto, mi sta facendo morire da ridere Rosanna che scrive: io vorrei il salto del pasto. Ma Rosanna, ma perché il salto del pasto? Dario, che è successo oggi a Rio? Oggi a Rio c'è stata, soprattutto per quanto ci riguarda, la cerimonia dell'alza bandiera, che tra l'altro abbiamo raccontato, no? nel corso di tutti i convocati. Adesso c'è, come sentite, si susseguono le conferenze stampa, perché si guarda già le prime gare e poi, come avete ben ricordato, c'è il torneo di calcio maschile e femminile che già ha aperto i battenti. Brasile e donne ha battuto 3-0 la Cina e quindi già risultato importante. Si aspetta adesso qui alle 16 locale Brasile-Sudafrica, col Brasile che insegue l'oro olimpico che gli è sempre sfuggito, a partire anche dalla finale di Londra contro il Messico nel 2012. E poi per il resto è la grande attesa della cerimonia inaugurale. Sembra proprio che sarà Pelé, questo ultimo teodoro. Ah, sembra Pelé. Dicono Pelé. Sì. Dicono Pelé, ma io credo che poi, come in tutte le grandi volate, che parte troppo presto, c'è il rischio che poi venga bruciato. Potrebbe essere anche lo specchietto per le allodole, per offrire magari un teodoro più stuzzicante. Certo, beh, non più di Pelé. Perché Pelé. Non saprei, non mi viene in mente nessuno di più rappresentativo di Pelé per le Olimpiadi brasiliane. No, sarebbe credo forse anche il più amato sì. Dai brasiliani. Qualcuno ieri scriveva: forse ne hanno anche bisogno. Fosse stato in vita Ayrton Senna, sarebbe stato l'ultimo teodoro perfetto per i brasiliani, anche se poi gli sport motoristici non hanno nulla a che vedere con le Olimpiadi, però sarebbe stato eventualmente un nome anche quello affascinante. Oggi hanno anche fatto sorteggio dei tabelloni del tennis e non c'è andata benissimo, ad esempio tra le donne, dove magari qualche speranziella piccola di medaglia la possiamo conservare. Roberta vince, finita la parte di Serena Williams, e quindi la incrocia nei possibili quarti di finale e insomma non è un bel vedere. I maschietti abbiamo un po' meno possibilità, comunque insomma oggi da domani si parte. Da domani si parte e aggiungerei anche finalmente. Senti Dario, abbiamo addombrato, cioè Capuano, diamo a ognuno ciò che è il suo. Adombrato l'ipotesi che Renzi oggi con le sue parole possa portare un po' di sfiga, cioè fate presto con la numero 200, tanto che sono qui perché poi devo tornare a casa. Beh, insomma, lui l'ha detto a domanda precisa, no? Perché è stato chiesto anche su quale puntava, no? Come 200ª medaglia. Lui anzi ha detto proprio: non ve lo dico, perché altrimenti poi se non arriva mi dite che certo. Sfiga. Lo sa anche lui. È chiaro che se arrivasse già sabato dal ciclismo, dalla strada femminile, adesso tra l'altro è abbastanza difficile, impervio il cammino della Flamingo, perché è stata sorteggiata dalla parte del tabellone dove incrocerebbe la grande favorita cinese. Proprio da poco c'è stato il sorteggio, però è chiaro che se arrivasse la 200ª, lui sta qui e può sicuramente celebrare la parte sua. Allora può dire: ho portato fortuna. Si può risparmiare il solito tweet. Può dire: ciccio, ho portato fortuna. Potrebbe dire così. Anche perché poi noi abbiamo l'esperienza calcistica del 2012, ricorderete, con Mario Monti refrattario a qualsiasi partita di calcio, che andò a vederne una sola e fu la finale degli europei a Kiev contro la Spagna e perdemmo 4-0. Sì. Quindi credo che quell'esperienza sia rimasta un po' nel DNA del politico di turno. Anche il Premier si muove con la giusta cautela, però ha già prenotato, da quello che so, il posto sugli spalti per l'arrivo della prova di ciclismo. Quindi no, comment. No comment. No comment. Posso dire no, possiamo dire tutti in coro no comment, aggiungendo anche il gesto scaramantico del caso. Ma del lo estendiamo anche ad Anna da Udine, che 349-238-6666 ha detto che la prima medaglia d'oro italiana sarà quella di Chiara Cainero. Ah. Quando è che è? Sabato, domenica? Non lo so, non ho sotto mano il programma. Lo sterminato programmone olimpico, vabbè, la aspettiamo anche qui facendo gli scongiuri del caso. Dario, grazie, ci sentiamo sempre. Grazie a voi, abbraccio Dario. Abbraccio. Intanto completo il discorso di Rosanna, che ha detto il salto del pasto, te lo ricordi? Sì. Io ho detto, ma perché si vuole saltare il pasto? Ed ha risposto, per la prova costume a Rio, capito? Poi corsa alle botti molto praticata. Io propongo tiro alla selvaggina, campana e palla avvelenata, la danza acrobatica, il gioco del righello, ne è qualcun altro? Vado avanti io. Vai. Il lancio della moglie, chi vince viene premiato dalla Boldrini, scrive Roberto. Sì. Calcio balilla o calcino, c'è chi dice che Dario Ricci ha proposto le Olimpiadi di alza bandiera, o ho capito male io? No, mi sa che hai capito male. Sì. Io c'è stato l'alza bandiera alle Olimpiadi. Di uno sport che, visti i tuoi pesca stretti, sportiva, rutto più tonante, corsa all'appalto, le Olimpiadi di corsa all'appalto, Italia prima di sicuro. Prima di sicuro è Roma stracandidata. No, visto i tuoi contatti con Brescia per via familiare, moglie, eccetera, eccetera, mi spieghi cos'è la palla bollata? Elio da Brescia chiede la palla bollata. Non ho la minima idea. Chiediamo a Dana Migliorato. Anche del lancio della ruzzola. Luca da Roma, mi fa morire. Un 2-3 stella, Paolo. Vai, dica, dica Luca. Sì. Buonasera, io di solito intervengo al programma di Giannino, quindi sì. Sì. Vabbè, io volevo dire una cosa, premessa, a me le Olimpiadi piacciono. Ti devi accontentare. Non le voglio pagate dallo Stato, mi sono stufato. Per due motivi. Uno, non vedo perché io devo mettere i soldi su delle iniziative in cui io siamo in uno stato in cui non può sopportare certe spese. Seconda, abbiamo dei precedenti molto negativi, e lo sono sia le mondiali di Cordero di Montezemolo, sia i mondiali di nuoto di Malagò. I mondiali del 90, qua a Roma, hanno fatto due stazioni tenute aperte per 10 giorni e poi sono finite in cavallerie di archeologia industriale. I mondiali di nuoto, è stato fatto uno stadio del nuoto a Tor Vergata, che è un altro esempio di archeologia industriale. A Torino, di cui si parlava prima, la pista di bob e il salto del trampolino, anche quelli fanno parte dell'archeologia industriale. Sì, io non ne posso più di queste cose. Luca, hai ragione. Nel 2024 hai andrà bene. Non ci credo più. No, ma nessuno te lo dice che nel 2024 andrà bene. Tra l'altro io penso che sia anche altamente improbabile che Roma possa davvero correre per le Olimpiadi del 2024, perché insomma è cambiato tutto dal punto di vista politico, e queste corse sono comunque difficili da vincere, o corri convinto oppure fai prima a ritirarti. Io contesto soltanto il discorso che non si possa pensare a grandi manifestazioni pagate con soldi pubblici. In realtà poi c'è anche un lascito, c'è anche un indotto che funziona, e se tu vuoi fare queste cose non puoi pensare che siano pagate dai privati. Non succede da nessuna parte, quindi perché dovrebbe succedere in Italia? Poi no, però, tutto il resto, però, Luca sai, ha perfettamente dice, ragione, sfonda la porta aperta. Luca non so se ne vuole fare un discorso generale, cioè non dovrebbero i grandi eventi essere pagati con soldi pubblici, questo in tutto il mondo, o ne fa un discorso strettamente italiano dicendo, con tutti i problemi che abbiamo, ci manca soltanto l'Olimpiade. Mi sentite ancora? Sì. Ah, guardi, allora, secondo me entrambi, cioè noi abbiamo più il rischio di fare come la Grecia, perché ad esempio noi mondiali del 90 abbiamo finito nel 2015 di pagare l'ultima rata del cosiddetto mutuo. Rimane il fatto che c'è un esempio precedente di Olimpiadi privata, le Olimpiadi di Atlanta, che praticamente ha pagato la Coca-Cola e gli sponsor privati. A me va benissimo, anche perché lo sport moderno non è quello di De Coubertin, sono dei professionisti e devono essere finanziati dall'azienda per cui lavorano. A me invece no, perché le Olimpiadi sono anche qualcosa di diverso, sono anche qualcosa di politica, per provare a far crescere lo sport magari in continenti che prima non l'hanno ospitato, altrimenti le Olimpiadi le ospita gli Stati Uniti e le paga la Coca-Cola, li ospitano gli sceicchi e noi riviviamo quella cosa che abbiamo vissuto nell'assegnazione dei mondiali di calcio del 2022, che, perdonami Luca, non credo sia stato un bello spettacolo, o no? Sì, ma il Qatar usano i nepalesi come schiavi, cioè siamo a un altro livello ancora lì. Eh beh, insomma, sai, però se comandano solo i soldi, se comandano solo i soldi, poi il senso è chiaro, però insomma, non generalizziamo. No, devono essere ormai Olimpiadi sostenibili, questo vale per tutti. È chiaro che l'Olimpiade pagata con soldi privati è un'utopia, una chimera, un'ipotesi marginale, anche un rischio come quella di Atlanta. La sfida vera sarebbe quella di, ci si lamenta ad esempio in Italia della mancanza di strutture, di impianti, cronica eccetera, di creare un sistema di impiantistica sportiva che possa partire dalle Olimpiadi e andare oltre. Questa potrebbe essere la sfida vera, quella olimpica che quest'anno non vivrà Matteo Tagliariola, che invece le medaglie olimpiche le conosce bene nella scherma. Ciao Matteo. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao. Ci siamo visti l'ultima volta a Vinita, le avevamo grandi speranze. Anche io, guarda, più di voi. No, di più no, ma vabbè, mettiamo uguale, facciamo uguale. Uguale, solo che io ci ho dato tutto il possibile, purtroppo non è andata bene. Sarà la prossima. Per sì. Fortuna ce la posso ancora fare, intanto questa qua la vivo da spettatore. Sì, sarà per la prossima, certamente, ce la puoi ancora fare, certamente, l'età c'è, il talento anche. Ho letto però che hai fatto anche qualche accusa al sistema di gestione del tuo sport. No, beh, l'avevo fatta, cioè, più che altro, sai, io rientravo da un infortunio e ci sta, è un infortunio molto lungo e io mi aspettavo di avere in base, diciamoci, alle prove che avevo dato in passato, non solo per le Olimpiadi, ma anche insomma tutti i risultati che avevo portato anche dopo, mi aspettavo un pochino più di fiducia a inizio stagione, a inizio qualifica da parte del commissario. Sto qui, la parte finale ho fatto 2-3 gare, purtroppo sono andate male, cioè non male, ma non abbastanza bene, e quindi non ho ben figurato. Io sostengo che se avessi fatto l'intera qualifica probabilmente mi sarei qualificato. Saresti a Rio in questo momento. Sì, questo è quello che io penso. Magari, sai, non so, forse sono un po' sfacciato, forse no, mi valuto no, troppo questo... bene. Se uno non è così non divento un campione, Matteo. Vorrei aver avuto le possibilità che hanno avuto altri. Il punto è che dal mio punto di vista la squadra quest'anno, come per certi possono pensare fosse anche giusto, era abbastanza blindata e quindi non c'era posto per una persona che venisse dall'esterno, tra virgolette. Esatto. Sì, capisco, ho capito perfettamente. Sei ottimista per queste Olimpiadi, per la scherma, che è la nostra tradizionale miniera di medaglie, che però parte, e lo sappiamo, insomma, senza la possibilità di vincere la squadra del fioretto femminile, la squadra della sciabola maschile, perché non fanno parte del programma. Insomma, quante ne prendiamo dalle 7 che sono state di medaglie nelle ultime edizioni? Ma quante non lo so, io non faccio mai pronostici. Di sicuro, secondo me, la scherma darà tante medaglie come sempre, perché gli atleti sono molto forti e i maestri sono molto forti, tant'è che molti dei nostri maestri adesso sono all'estero proprio perché i migliori al mondo. E prenderemo tante medaglie, non ti so quantificare quante. Sicuramente il fioretto è una certezza, anche se adesso c'è la Russia che è molto pesante, che tra l'altro appunto la Russia è allenata da Cerioni, che era un maestro italiano. Certo. E a stesso modo nella spada ci sono molte possibilità, secondo me. Io non la voglio guffare a nessuno, però quest'anno la stagione di Garozzo è stata veramente buona, perché è, se non sbaglio, numero 2 al mondo, ha fatto un sacco di risultati, per cui insomma se si guarda la stagione a medaglia ci può arrivare, non voglio dire altro. Ma, ecco. Ma tu per chi punti la sveglia? Per lui, per la Di Francesca? Per tutti, io immagino. Se devi consigliare a qualcuno che poi il giorno dopo va a lavorare presto e non è un patito della scherma. Diciamo che non solo come italiano, ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dello spettacolo. Ma io dico fioretto femminile di sicuro, e terrei sempre un occhio su Montano, sciabola maschile, perché Intanto comunque è sempre uno spettacolo, e poi anche nonostante l'età ha fatto vedere che sicuramente è ad altissimi livelli. E io un talento come il suo l'ho visto poche volte. Vecchio Aldone, sì, come dicevo, sì, l'altro giorno lo ricitavo, le patate fritte un suo nome è abbastanza, disse dopo la medaglia di Atene. Sì. No, lui sempre, io lui lo tengo sempre come, che poi non è un vero outsider perché insomma ha vinto gare quest'anno, però io su Di Aldo scommetterei sempre. Senti Matteo, da bambino abbiamo chiesto in questi giorni a tanti nostri ascoltatori, dacci una tua istantanea olimpica, un tuo ricordo olimpico. Ma io ho sempre definito, io intanto ho partecipato alle Olimpiadi che hanno detto che sono le più organizzate della storia, perché quelle di Pechino erano oggettivamente perfette. E quello che io mi ricordo, cioè, è che ero proprio felicissimo solo di essere lì, e che per me era come essere a Disneyland, cioè era un parco giochi. Cioè io nel momento in cui sono arrivato, prima ero estremamente teso, nel momento in cui sono arrivato ho avuto la cosiddetta calma olimpica, perché ero così felice ed era tutto così perfetto, così bello, che quasi non ci credevo. E infatti ho parlato con i miei genitori che sono arrivati una settimana dopo, e gli ho detto io sono contento di essere qui, non mi interessa più, cioè è il primo momento in cui veramente non mi interessa di vincere. Sì, sì, ti posso capire esattamente. Ma invece da spettatore, da bambino, il primo ricordo olimpico che hai qual è? Eh beh, io nel 92 la Trillini. La Trillini nel 92? Sì. Già allora puntavi alla scherma, non guardavi il Dream Team di Michael Jordan? Ma Magic quello Johnson, anche ovviamente. Quello anche. Io poi da trevigiano sai, sempre seguito il basket. Sì, però, sì, sì. Però in realtà sì, io ho iniziato a fare scherma nell'89, per cui nel 92 ero proprio nel fior fiore. Eri già arrappato, insomma, esatto. da questo sport. Matteo, grazie, in bocca al lupo. Ci sentiamo grazie in corso d'Olimpiade. Assolutamente, volentieri. Grazie davvero. Ciao. Grandissimo Matteo Tagliariol. Arrivano spiegazioni su che cos'è il gioco della ruzzola, che si pratica in Toscana, scrive Beppe d'Arezzo. Sì. Si faceva in origine con forme di pecorino stagionato, lanciate con una cordina. Chi vinceva prendeva il formaggio degli altri, e da qui il detto non rigiocare il cacio vinto. Cosa c'è di meglio del nascondino alle Olimpiadi? Caro ascoltatore, arrivi tardi, abbiamo già detto noi, e ci hanno già pensato, perché qualche tempo fa, come ho detto, era uscita una notizia per cui a qualcuno era venuta la bizzarra idea di... C'ha scritto anche il vice campione italiano di pesca alla carpa, Max da Crema, voglio andare alle Olimpiadi. Invece c'è qualche posto, l'abbiamo detto ancora lunedì. Due settimane fa ai mondiali di retro running in Germania l'Italia ha fatto una bella figura. Un mondiale a 26 nazioni è ancora poco per le Olimpiadi, ma tra un po' speriamo che la disciplina cresca. Mi chiamo Francesco, a Essen ho vinto un bronzo, una 4% all'indietro, in edizioni passate altre medaglie. Quest'anno ho notato più qualità nella disciplina, quindi sono fiducioso in una sua futura aggiunta al programma olimpico. La retro running vuol dire la corsa all'indietro, signori. Votate. Parigi 1900, pelota basca, palla corda, nuoto ostacoli, croquet, salto in alto e lungo a cavallo con oro vinto dal conte Trissino. Questo sì. È Patrick, lo scrive, è una miniera Patrick. Dai, Serena da Roma, Serena. Buonasera a tutti. Dica Serena. Io l'ho visto giocare il gioco della ruzzola. Ah, l'ha visto giocare? Allora aspetti che le presento Ivo. No, Ivo dobbiamo richiamarlo perché si è emozionato in questo incontro telefonico con Serena. Però voleva parlare dello stesso argomento. Dica. Io volevo intervenire in relazione al doping, sì, perché magari è un po' intuitivo, però era una riflessione che volevo condividere, perché sono un'appassionata di sport ma sono anche un avvocato, sì, e sono assolutamente scandalizzata per la mancanza di legalità con questo fenomeno così importante. Prima parlavamo di Bart, ma non è, cioè, solo lui, io anche per lavoro mi sono occupata di vari casi e credo che la sensazione sia che per combattere un fenomeno di illegalità si utilizzi altrettanta illegalità, ed è a mio avviso scandaloso. A cosa si riferisce? Alla sommarietà dei processi sportivi? Alla sommarietà, alla mancanza ormai di applicazione di un principio minimo, quella della personale, alla tempestività, ma anche alla tempestività poi dei controlli, eccetera, perché nel caso specifico ho trovato francamente scandaloso che si faccia un prelievo il 1° gennaio, già punitivo di per sé, ma questo è un altro discorso, e poi i risultati vengano resi noti alla parte a maggio, non c'è contraddittorio, sì. Non si sa queste provette come vengano gestite, ma questo non è soltanto in quel caso, io purtroppo... No, però quel caso è talmente eclatante e dei vizi di procedura stanno emergendo. Io devo dire la verità, su questa opinione, su questo sulla vicenda Schwarzer, ho cambiato idea e non mi vergogno a dirlo, perché il primo sentimento quando è uscita quell'agenzia Schwarzer di nuovo positivo, beh, a me sono cadute veramente le braccia e molto altro, cioè mi sono sentito tradito e infuriato. Poi leggendo la vicenda, leggendo i vari passaggi, come leggendo, lei ha ragione Serena, alcune vicende di doping, molti dubbi e molti sospetti vengono, perché i controlli ormai, 1° gennaio le dice punitivo, 1° gennaio io dico quasi normali, controlli a sorpresa sono controlli a sorpresa, quindi... E in questo e a questi si sottopongono tutti gli atleti. Ivo, buongiorno. Buonasera. Telefono da Iesi, provincia d'Ancona. Sì. La capitale mondiale della scherma. Sì. Ho detto troppo? No. Adesso la Vezzali non ce l'abbiamo più in competizione, ci abbiamo la Di Francesca. Speriamo che ci porti in ulteriore medaglia d'oro. Sì, non ne avete abbastanza da quelle parti. Veramente sulla scherma non c'è che dire. Ci siamo permessi di dare anche alla Russia l'allenatore, va bene. Comunque, avevo telefonato per il fatto della russola, sì. Ma già è stato detto, diciamo, sommariamente tutto quanto, perché è un gioco molto molto antico. Dalle nostre parti si pratica per le vie cittadine, adesso non è più la forma di formaggio ma è una rotella di legno e dove si mette una corda intorno e si lancia lungo la strada. E normalmente è fatto per squadre, però è un gioco molto bello perché questa ruota deve andare lungo la strada. Sì, non c'è dubbio che sia bello, però trovo che ci sia un problema di materiali, perché si sia passati dal calcio alla ruota di legno. In questo caso mi pare una ricerca del materiale al contrario. Io preferivo quella di prima. Sì, meglio il calcio. Meglio il calcio, ma non c'è dubbio. E non si rigioca il calcio vinto. Non si rigioca il calcio. Come dice Beppe D'Arezzo. Abbiamo finito, sì. Sì, sentiamo domani. Domani dalle 14 alle 15, appuntamento tradizionale, poi ancora dalle 18 alle 20. Domani è il giorno poi che porta alla grande cerimonia inaugurale. Finalmente parliamo di qualcosa. No, vabbè, fino adesso di cosa abbiamo parlato? Ci siamo divertiti un sacco. Claudia Schiattone, il nostro autore, Lorenzo Nespoli, Leonardo Sirigardi in redazione, Pietro Racorte in regia, Riccardo, Leonardo. Sirigato, Leonardo, perdonatemi, io non ricordo neanche i nomi dei miei figli, lo confesso candidamente. Ciao a tutti, GR. Tutti convocati. Ok, ci vediamo domani. Enjoy!